Sezione undicesima della Divina Commedia Il Paradiso di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto undicesimo. O insensata cura de mortali, quanto son difettivi sillogismi quei che ti fanno in basso batter l'ali. Chi dietro a iura e chi ad aforismi s'engiva, e chi seguendo sacerdozio, e chi regnar per forza e per sofismi, e chi rubare, e chi civil negozio, chi nel diletto della carne involto s'affaticava, e chi si dava all'ozio. Quand'io, da tutte queste cose sciolto, con Beatrice me rassuso in cielo, cotanto gloriosamente accolto, poi che ciascuno fu tornato nello punto del cerchio in che avanti s'era, fermossi come a candelier candelo, ed io sentì dentro a quella lumiera che pria m'avea parlato, sorridendo incominciar facendosi più mera. Così, com'io del suo raggio m'accendo, sì riguardando nella luce eterna di tuo pensieri, onde cagioni apprendo. Tu dubbi ed hai voler che si ricerna in sì aperta e sì distesa lingua lo dicer mio, ch'al tuo sentir si sterna. Ove dinanzi dissi, u ben s'impingua, e la udissi, non surse il secondo, e qui è uopo che ben si distingua. La provvidenza che governa il mondo, con quel consiglio nel quale ogni aspetto creato è vinto, pria che vada al fondo, perocché andasse ver lo suo diletto, la sposa di colui che ad alte grida disposò lei col sangue benedetto, in sé sicura e anche a lui più fida, due principi ordinò in suo favore, che quinci e quindi le fosser per guida. L'un fu tutto serafico in ardore, l'altro per sapienza in terra fu e di cherubica luce uno splendore. Dell'un dirò, perocché da men due si dice l'un pregiando qual quom prende, perché ad un fine fur l'opere sue. Intra a tupino e l'acqua che discende dal colle eletto del beato Ubaldo, fertile costa d'alto monte pende, onde Perugia sente freddo e caldo da porta sole, e di rietro le piange per greve giogo nocera con gualdo. Di quella costa là, dov'ella frange più sua rattezza, nacque al mondo un sole, come fa questo talvolta di gange. Però chi desso loco fa parole, non dica ascesi, che direbbe corto, ma oriente, se proprio dir vuole. Non era ancor molto lontan dall'orto, che cominciò a far sentir la terra della sua gran virtude alcun conforto, che per tal donna giovinetto in guerra del padre corse, a cui, come alla morte, la porta del piacer nessun diserra, e dinanzi alla sua spirital corte et coram patre le si fece unito, poscia di dindi l'amò più forte. Questa, privata del primo marito, 1100 anni e più dispetta e scura, fino a costui si stette senza invito. Ne valse udir che la trovò sicura con amiclate al suon della sua voce, colui ch'a tutto il mondo fe paura. Ne valse esser costante né feroce, sì che dove Maria rimase giuso, ella con Cristo salse in sulla croce. Ma perch'io non proceda troppo chiuso, Francesco e povertà per questi amanti prendi oramai nel mio parlar diffuso. La lor concordia e i lor lieti sembianti amore e maraviglia e dolce sguardo facean esser cagion de pensier santi, tanto che il venerabile Bernardo si scalzò prima e dietro a tanta pace corse e correndo gli parve esser tardo. O ignota ricchezza, o ben verace, scalzasi Egidio e scalzasi Silvestro dietro allo sposo, si la sposa piace. Indi sen va quel padre e quel maestro con la sua donna e con quella famiglia che già legava l'umile capestro. Negli gravò viltà di cuor le ciglia per esser fi di Pietro Bernardone, né per parer dispetto a maraviglia. Ma regalmente sua dura intenzione d'innocenzio aperse e da lui ebbe primo sigillo a sua religione. Poi che la gente poverella crebbe dietro a costui, la cui mirabil vita meglio in gloria del ciel si canterebbe, di seconda corona redimita fu per onorio dall'eterno spiro la santa voglia d'este archimandrita. E poi che per la sete del martiro, nella presenza del soldan superba, predicò Cristo e gli altri che il seguiro. E per trovare a conversione acerba troppo la gente, e per non stare in danno, reddissi al frutto dell'italica erba. Nel crudo sasso, intra tevere ed arno, da Cristo prese l'ultimo sigillo che le sue membra 2 anni portarno. Quando a colui che tanto ben sortillo piacque di trarlo suso alla mercede che il meritò nel suo farsi pusillo, ai frati suoi, sì come a giuste erede, raccomandò la sua donna più cara e comandò che l'amassero a fede. E del suo grembo l'anima preclara muoversi volle, tornando al suo regno, e dal suo corpo non volle altra bara. Pensa oramai qual fu colui che degno collega fu a mantener la barca di Pietro in alto mar per dritto segno, e questi fu il nostro patriarca, perché qual segue lui, come ei comanda, discerner poi che buona merce carca. Ma il suo peculio di nuove vivande è fatto ghiotto sì, che esser non puote che per diversi salti non si spanda, e quanto le sue pecore rimote vagabonde più da esso vanno, più tornano all'ovil di latte vote. Ben son di quelle che temono il danno e stringonsi al pastor, ma son sì poche che le cappe fornisce poco panno. Or, se le mie parole non son fioche, se la tua udienza è stata attenta, se ciò che ho detto la mente rivoche, in parte fia la tua voglia contenta, perché vedrai la pianta onde si scheggia e vedrai il corregger ch'argomenta. U ben s'impingua se non si vaneggia. Fine del canto 11.